Friuli nel mondo. Friuli nel mondo. Quinta trasmissione dedicata agli emigrati all'estero. Valli del Natisone. Testo di Dino Menechini. Partecipano alla trasmissione L'Ottetto di Capriva, diretto dal maestro Francesco Capello. Le allieve dell'educandato delle Orsoline di Cividale del Friuli. Un gruppo di ragazze di Lasis. Canti popolari. Musiche originali di Luigi Garzoni. Scendendo a Pulfero dal valico di Stupizza, che segna la linea di confine con la Jugoslavia, tutt'intorno lo sguardo abbraccia la cerchia dei monti del Friuli orientale, il Matajur e il Canin, più in là lo Stol, il Monte Nero, il Rombon. Vette che il cuore e il ricordo raggiungono, anche se il passo deve arrestarsi dinanzi alla sbarra di frontiera. Scendendo con le acque tersissime del Natisone verso Cividale, che fonde mirabilmente in sé la civiltà romana e la Longobarda e la Veneta, si incontra sulla sinistra, sotto uno sperone del Matajur, una vecchia croce di legno. Essa indica il punto di dove è possibile scorgere da chiunque, con qualunque tempo, il santuario di Castelmonte. Visto così da lontano, è un segno appena vivo nel cielo, quasi una nube sulla sommità della collina. Ma nel sentimento della gente del Friuli esso ha le dimensioni della fede. Non c'è giorno festivo, si può dire, che da tutta la regione non salgano lassù schiere di pellegrini a sciogliere un voto o a rinnovare una preghiera nella dolce e armoniosa lingua friulana, che acquista una cadenza di canto, ma più spesso è canto, purissima melodia. E chi può stupirsi che la Madonna Nera di Castelmonte sia chiamata Colombe dal Signor dai pellegrini friulani? Per ogni cuore umano la Vergine ha il bianco colore dell'innocenza. E così la Madonna ha uguali benedizioni per chi la invochi nel dialetto slavo delle valli del Natisone, il domestico linguaggio di questa terra fedelissima all'Italia. Del resto, per documentare la fedeltà di questo estremo lembo del Friuli alla patria, non occorre riandare indietro nel tempo. Non c'è bisogno di ricordare che la Repubblica di Venezia concedette agli validi et fedelissimi uomini delle convalli, che facevano buona guardia ad Oriente, benefici e guarentigie ed esenzioni. Il doge riceveva i messi di Val Natisone con assoluta precedenza su tutti. E l'amore di questa gente per Venezia ha ancora testimonianza in una colonnina che a San Pietro reca inciso il leone di San Marco. Basterà dire soltanto che nel corso della guerra 15-18 le valli, che nell'ottobre del 17 dovevano patire per prime la violenza dell'invasione, non dettero neppure un disertore. Ora il nome di tutti i valligiani caduti in guerra è scolpito nel marmo della trecentesca chiesetta di San Quirino. Al sommo del cancello che la chiude, una scritta. Qui i morti vivono. E forse non sfugge ad un preciso segno del destino che proprio qui, in Val Natisone, sotto le pendici del Colorat, sia caduto il primo soldato italiano, 4 ore dopo l'inizio della guerra italo-austriaca. Era un alpino del battaglione Cividale, l'udinese Riccardo Di Giusto. A pochi metri dai paletti bianchi che affiorano zigzagando la montagna c'è un monumentino che ne ricorda la morte e ne segna il punto preciso. Ma per i friulani lontani dalle loro case ci piace rievocare il sacrificio di Riccardo Di Giusto attraverso una commossa pagina di Chino Ermacora, alpina in quegli stessi giorni su questi monti. Ascoltatelo. La sera del 23 maggio giunge un dispaccio al comandante di battaglione. Gli ufficiali si radunano a rapporto. Al tramonto squilla l'armata. L'ordine è di tenersi pronti e di dormire vestiti, perché la sveglia sarebbe suonata per tempo. Mezz'ora dopo eravamo sprofondati nel pieno odoroso, addossati gli uni agli altri. Qualche parola, un rumor metallico di gavette contro le buffetterie, lo sfiatar delle mucche nella stalla sottostante, un odore acuto di letame. Poche ore dopo, non era ancora la mezzanotte, un fanalaccio scorre sui nostri volti. Sveglia e silenzio, guai a chi accende fiammiferi. Ci rimuoviamo con le membra indolenzite, mezzo intirizzite. Scendiamo la scaletta per gli uomini. L'oscurità è fonda, bisogna servirsi delle mani in luogo degli occhi. A poco però si comincia a discernere le masse oscure delle case e degli alberi, il biancore della mulattiera. Volano ordini sottovoce, sodono dei fischi. Assistiamo per non so quanto tempo, la nozione del tempo s'era andata mano a mano perdendo, alla sfilata di uno o due battaglioni piemontesi. Sono alpini che avevamo conosciuti di sfuggita qualche giorno prima. Marciano in silenzio. S'avverte soltanto il rumor secco delle scarpe ferrate sui ciottoli. Finalmente ci accodiamo in fila indiana. Era scoppiata la guerra, ma nessuno di noi lo sapeva. Raggiungiamo la sommità dello spartiacque, il confine. A un tratto ci pare di udire due colpi. Chiesa l'abbiamo poco dopo, passando vicino alla cappella Schlimme. Sul ciglio del sentiero, riverso nell'erba, geme un soldato austriaco. È un adolescente, invoca la madre lontana. Meine Mutter, meine Mutter. Altri colpi, più fitti stavolta. È caduto uno dei nostri. Lo scorgo infatti, tra due compagni curvi, supino nell'erba. È il soldato di Giusto Riccardo da Udine. 16ª compagnia, classe 95, il compagno biondo e taciturno, il primo caduto nella grande guerra. Mi chino su lui un istante, alla luce crepuscolare scorgo un forellino nella sua fronte, sotto i capelli. Un filo di sangue gli s'arresta in un'orbita. Sfioro il volto con la mano, è tiepido ancora.